Ad alta voce, Elio De Capitani legge Cent'anni di solitudine di Gabriel García Márquez, traduzione di Enrico Cicogna. Pilar Ternera morì nella poltrona di Giunco in una notte di festa, mentre sorvegliava l'entrata del suo paradiso. D'accordo con la sua ultima volontà, la seppellirono senza bara, seduta nella poltrona che 8 uomini calarono con funi in un buco enorme, scavato in mezzo alla pista da ballo. Le mulatte vestite di nero, pallide di pianto, improvvisavano uffici delle tenebre mentre si toglievano gli orecchini, le spille, gli anelli e li andavano gettando nella fossa, prima che la sigillassero con una lapide senza né nome né date e le collocassero sopra un promontorio di camelie amazzoniche. Dopo aver avvelenato gli animali, sbarrarono porte e finestre con mattoni e malta e si dispersero per il mondo con i loro bauli di legno, tappezzati nell'interno con stampe di santi, cromi di riviste e ritratti di fidanzati effimeri, remoti e fantastici, che cagavano diamanti o che si mangiavano i cannibali o che erano incoronati re di coppe in alto mare. Era la fine. Nella tomba di Pilar Ternera, tra salmi e conterie di puttane, imputridivano i ruderi del passato, i pochi che rimanevano, dopo che il savio catalano aveva liquidato la libreria ed era tornato nel villaggio mediterraneo dove era nato, sconfitto dalla nostalgia in una primavera tenace. Nessuno avrebbe potuto presentire la sua decisione. Era arrivato a Macondo nello splendore della compagnia bananiera, fuggendo da una delle tante guerre, e non gli era venuto in mente nulla di più pratico dell'apertura di quella libreria di incunaboli e edizioni originali in varie lingue che i clienti casuali sfogliavano con prudenza, come se fossero libri da mondezzaio, mentre aspettavano il turno per farsi interpretare i sogni nella casa di fronte. Passò metà della vita nel soffocante retrobottega, scarabocchiando con una scrittura preziosista in inchiostro viola e su fogli che strappava da quaderni scolastici, senza che nessuno sapesse con esattezza che cosa stava scrivendo. Quando Aureliano lo conobbe, aveva due casse piene di quelle pagine fitte, che in un certo modo facevano pensare alle pergamene di Melchiades. E da allora fino a quando se ne andò ne aveva riempito una terza, così che si poteva pensare ragionevolmente che non avesse fatto altro durante la sua permanenza a Macondo. Le uniche persone con le quali ebbe rapporti furono i quattro amici ai quali sostituì coi libri le trottole e gli aquiloni e li mise a leggere Seneca e Ovidio quando ancora andavano alle elementari. Trattava i classici con una familiarità casalinga, come se tutti fossero stati in qualche epoca suoi compagni di stanza, e sapeva molte cose che semplicemente non si dovevano sapere, come che Sant'Agostino portava sotto l'abito un giubbotto di lana che non si tolse per 14 anni o che Arnaldo de Villanova, il negromante, era diventato impotente fin da bambino per il morso di uno scorpione. Il suo fervore per la parola scritta era una mescolanza di rispetto solenne e di irriverenza pettegola. Nemmeno i suoi stessi scritti erano esenti da questo dualismo. Avendo imparato il catalano per tradurli, Alfonso si mise un rotolo di fogli in tasca, che aveva sempre piene di ritagli di giornale e di manuali di mestieri strani, e una notte li perse nella casa delle ragazzine che facevano all'amore per fame. Quando il nonno Savio lo venne a sapere, invece di fargli la sfuriata temuta, commentò, scoppiando a ridere, che quello era il destino naturale della letteratura. In cambio, non ci fu potere umano capace di persuaderlo di non tirarsi dietro le tre casse quando fece ritorno al suo villaggio natale e si lasciò andare a improperi cartaginesi contro i funzionari della ferrovia che cercavano di spedirli come carico finché riuscì a portarli con sé nel vagone passeggeri. Il mondo avrà finito di scoglionarsi, disse allora, il giorno in cui gli uomini viaggeranno in prima classe e la letteratura nel carro merci. Fu l'ultima cosa che gli sentì dire. Aveva passato una settimana nera nei preparativi finali del viaggio, perché a mano che si avvicinava l'ora, gli si decomponeva la disposizione d'animo, gli si confondevano le intenzioni e le cose che metteva in un posto ricomparivano in un altro, assediato dagli stessi spiriti che tormentavano Fernanda. «Coglion», malediceva, «me ne sbatto del canone 27 del sinodo di Londra». Germain e Aureliano si presero cura di lui. Lo aiutarono come un bambino, gli assicurarono i biglietti e i documenti migratori nelle tasche, con spille da baglia, gli prepararono un elenco particolareggiato di quello che doveva fare da quando fosse uscito da Macondo a quando fosse sbarcato a Barcellona. Ma in ogni modo buttò nella spazzatura senza accorgersene un paio di pantaloni con la metà del suo denaro. Alla vigilia del viaggio, dopo aver inchiodato le casse e aver messo la roba nella stessa valigia con la quale era arrivato, aggrottò le sue palpebre da arsella, segnò con una specie di benedizione procace i mucchi di libri coi quali aveva sopportato l'esilio e disse ai suoi amici: «Mi lascio lì quella merda!» 3 mesi dopo ricevettero in una grande busta 29 lettere e più di 50 fotografie che aveva accumulato negli ozi dell'alto mare. Anche se non c'erano date, era evidente l'ordine col quale aveva scritto le lettere. Nelle prime raccontava col suo solito spirito le peripezie della traversata, la voglia che gli era venuta di buttare a mare il funzionario della nave che non gli aveva permesso di tenere le tre casse nella cabina, l'imbecillità lucida di una signora terrorizzata dal numero 13, non per superstizione, ma perché le sembrava un numero rimasto sempre incompleto, e la scommessa che aveva vinto durante la prima cena perché aveva riconosciuto l'acqua di bordo dal sapore di barbabietole notturne delle sorgenti di Lerida. Col passare dei giorni, tuttavia, la realtà di bordo gli importava sempre meno e perfino gli avvenimenti più recenti e triviali gli sembravano degni di nostalgia, perché a mano che la nave si allontanava, la memoria gli si andava intristendo. Quel processo di nostalgizzazione progressiva era evidente anche nelle fotografie. Nelle prime sembrava felice, con la sua camicia d'invalido e il suo ciuffo di neve, nel rutilante ottobre dei Caraibi. Nelle ultime lo si vedeva con un cappotto scuro e una sciarpa di seta, pallido di se stesso e taciturnato dall'assenza, sul ponte di una nave di afflizione che cominciava a sonnambulare per oceani atullari. Germane e Aureliano rispondevano alle sue lettere. Ne scrisse così tante nei primi mesi che si sentirono più vicini a lui allora di quando era a Macondo e quasi gli passava la rabbia che se ne fosse andato. Sulle prime mandava a dire che tutto era uguale come una volta, che nella casa dove era nato c'era ancora la chiocciola rosa, che le aringhe affumicate avevano sempre lo stesso sapore nella corteccia di pane, che le cascate del villaggio continuavano a profumarsi verso sera. Erano di nuovo i fogli di quaderno trapuntati di scarabocchi viola, nei quali dedicava un paragrafo speciale ad ognuno. Tuttavia, e anche se lui stesso non ne pareva conscio, quelle lettere di recupero e di stimolo si andavano trasformando a poco in pastorali di delusione. Nelle notti d'inverno, mentre faceva cuocere la minestra nel camino, soffriva la nostalgia del caldo del suo retrobottega, il ronzio del sole nei mandorli polverosi, il fischio del treno nel sopore della siesta. Proprio come a Macondo soffriva la nostalgia della minestra invernale nel camino, del richiamo del venditore di caffè e delle lodole fugaci della primavera. Stordito da due nostalgie opposte come due specchi, perse il suo meraviglioso senso delle realtà e alla fine raccomandò a tutti che se ne andassero da Macondo, che dimenticassero tutto quello che lui gli aveva insegnato del mondo e del cuore umano, che se ne fottessero di Orazio, che in qualsiasi luogo si fossero trovati si ricordassero sempre che il passato era menzogna, che la memoria non aveva via di ritorno, che qualsiasi primavera antica è irrecuperabile e che l'amore più sfrenato e tenace era in ogni modo una verità effimera. Alvaro fu il primo a seguire il consiglio di lasciare Macondo. Vendette tutto, persino la tigre prigioniera che si burlava dei passanti nel patio della sua casa, e comprò un biglietto eterno per un treno che non finiva mai di viaggiare. Nelle cartoline postali che mandava dalle stazioni intermedie, descriveva a sprazzi le immagini istantanee che aveva visto dal finestrino del vagone, ed era come sminuzzare e gettare nell'oblio il lungo poema della fugacità. I negri chimerici nei campi di cotone della Louisiana, i cavalli alati nell'erba azzurra del Kentucky, gli amanti greci nel crepuscolo infernale dell'Arizona, la ragazzina col golfino rosso che dipingeva acquerelli nei laghi del Michigan e che gli aveva fatto coi pennelli un cenno di addio, che non era di commiato ma di speranza, perché ignorava che stava vedendo passare un treno senza ritorno. Poi se ne andarono Alfonso e German un sabato con l'idea di tornare lunedì e non si seppe più nulla di loro. Un anno dopo la partenza del sabio catalano, l'unico che era rimasto a Macondo era Gabriel, sempre alla deriva alla mercé della precaria carità di Nigromanta e occupato a rispondere ai questionari del concorso di una rivista francese il cui primo premio era un viaggio a Parigi. Aureliano, che era l'intestatario dell'abbonamento, lo aiutava a riempire i formulari, certe volte in casa sua e quasi sempre tra i barattoli di ceramica e l'aria di valeriana dell'unica farmacia rimasta aperta a Macondo, dove viveva Mercedes, l'arcana fidanzata di Gabriel. Erano le ultime cose che rimanevano di un passato il cui annichilamento non si consumava, perché continuava ad annichilarsi indefinitamente, consumandosi dentro se stesso, terminandosi in ogni minuto, ma senza terminare di terminarsi mai. Il villaggio era giunto a tali estremi di inattività che quando Gabriel vinse il concorso e se ne andò a Parigi con due ricambi di roba, un paio di scarpe e le opere complete di Rabelais, dovette far dei segnali al macchinista perché il treno si fermasse a raccoglierlo. L'antica strada dei Turchi era allora un angolo di abbandono, dove gli ultimi arabi si lasciavano portare verso la morte dall'abitudine millenaria di sedersi sulla porta, anche se ormai da molti anni avevano venduto l'ultimo metro di diagonale e se nelle vetrine scure restavano soltanto i manichini decapitati. La città della compagnia bananiera, che forse Patricia Brown cercava di rievocare per i suoi nipoti nelle notti di intolleranze e cetrioli sott'aceto di Prattville, Alabama, era una pianura di erba silvestre. Il vecchio prete che aveva sostituito padre Hangel e il cui nome nessuno fece la fatica di chiedergli aspettava la pietà di Dio rovesciato nell'amaca, afflitto dall'artrite e dall'insonnia del dubbio, mentre le lucertole e i topi si disputavano l'eredità del tempio vicino. In quella Macondo dimenticata persino dagli uccelli, dove la polvere e il caldo si erano fatti così tenaci che si faceva fatica a respirare, reclusi dalla solitudine e dall'amore e dalla solitudine dell'amore in una casa dove era quasi impossibile dormire per il baccano delle formiche rosse, Aureliano e Amaranta Ursula erano gli unici esseri felici e i più felici della terra. Gaston era tornato a Bruxelles, Stanco di aspettare l'aeroplano, un giorno mise in una valigetta le cose indispensabili e il suo archivio di corrispondenza e se ne andò con l'intenzione di tornare per via aerea prima che i suoi privilegi venissero ceduti a un gruppo di aviatori tedeschi che avevano presentato alle autorità provinciali un progetto più ambizioso del suo. Dal pomeriggio del primo amore Aureliano e Amaranta Ursula avevano continuato ad approfittare delle scarse assenze del marito, amandosi con ardori imbavagliati in incontri azzardati e quasi sempre interrotti da ritorni imprevisti. Ma quando si ritrovarono soli nella casa, soccombettero al delirio degli amori arretrati. Era una passione insensata, scriteriata. Gli strilli di Amaranta Ursula, le sue canzoni agoniche, esplodevano sia alle 2 del pomeriggio sul tavolo della sala da pranzo che alle 2 del mattino nel granaio. Quello che più mi dispiace, rideva, è tutto il tempo che abbiamo perso. Nello stordimento della passione vide le formiche che devastavano il giardino, saziando la loro fame preistorica coi legni della casa, e vide il torrente di lava viva che si impadroniva di nuovo del portico. Ma si preoccupò di combatterlo soltanto quando lo trovò nella sua stanza. Aureliano abbandonò le pergamene, non tornò più a uscire di casa e rispondeva frettolosamente alle lettere del sabio catalano. Persero il senso della realtà, la nozione del tempo, il ritmo delle abitudini quotidiane. Tornarono a sbarrare porte e finestre per non perdere il tempo in faccende di denudamenti e giravano per la casa come avrebbe voluto stare sempre Remedios la Bella. E si arrotolavano nudi nella melma del patio. E un pomeriggio furono sul punto di affogare mentre si amavano nella cisterna. In poco tempo fecero più stragi delle formiche rosse. Schiantarono i mobili del salotto. Lacerarono con le loro follie l'amaca che aveva resistito ai tristi amori di accampamento del colonnello Aureliano Biendia, e sventrarono i materassi e li svuotarono per terra per soffocarsi in tempeste di cotone. Benché Aureliano fosse un amante feroce quanto il suo rivale, era Amaranta Ursula che dirigeva con la sua fantasia stravagante, la sua voracità lirica, quel paradiso di disastri, come se avesse concentrato nell'amore l'indomita energia che la trisnonna aveva consacrato alla fabbricazione di animaletti di caramello. Inoltre, mentre lei cantava di piacere e moriva di risa per le sue stesse invenzioni, Aureliano si andava facendo più assorto e silenzioso perché la sua passione era introversa e calcinante. Tuttavia, entrambi giunsero a tali estremi di virtuosismo che quando si esaurivano nell'esaltazione sfruttavano in modo migliore la stanchezza. Si abbandonarono all'idolatria dei loro corpi quando scoprirono che il tedio dell'amore aveva delle possibilità inesplorate, molto più ricche di quelle del desiderio. Mentre lui impastava con chiare d'uovo i semi rettili di Amaranta Ursula o addolciva con burro di cocco le sue cosce elastiche e il suo ventre duracinato, lei giocava alle bambole con la portentosa creatura di Aureliano e le pitturava occhi di pagliaccio col rossetto delle labbra e i baffi di turco col rimmel delle ciglia e le metteva cravattini di organdì e cappellini di carta spagnola. Una notte si spalmarono dalla testa ai piedi come peschi allo sciroppo. e si lambirono come cani e si amarono come pazzi sul pavimento del portico e furono svegliati da un torrente di formiche carnivore che si accingevano a divorarli vivi. Nelle pause del delirio, Amaranta Ursula rispondeva alle lettere di Gaston. Lo sentiva così distante e occupato che il suo ritorno le sembrava impossibile. In una delle prime lettere le scrisse che in effetti i suoi soci avevano mandato l'aeroplano, ma che un'agenzia marittima di Bruxelles lo aveva imbarcato per errore con destinazione Tanganyika, dove era stato consegnato alla sperduta comunità di Macondos. Quella confusione causava tanti contrattempi che solo per il recupero dell'aeroplano ci sarebbero forse voluti 2 anni. E così Amaranta Ursula scartò la possibilità di un ritorno inopportuno. Aureliano, da parte sua, non aveva altro contatto col mondo che le lettere del savio catalano e le notizie che riceveva di Gabriel attraverso Mercedes, la farmacista silenziosa. Sulle prime erano contatti reali. Gabriel si era fatto rimborsare il viaggio di ritorno per restare a Parigi a vendere giornali arretrati e bottiglie vuote che le cameriere toglievano da un albergo lugubre della Rue Dauphine. Aureliano poteva figurarselo allora con un maglione a collo alto che si toglieva soltanto quando le terrazze di Montparnasse si affollavano di innamorati primaverili e preoccupato di dormire di giorno e di scrivere di notte per ingannare la fame nella stanza odorosa di spuma di cavolfiori bolliti, dove sarebbe morto Rocamadour. Tuttavia, le sue notizie si vennero facendo a poco, così incerte, così sporadiche e malinconiche le carte del savio, che Aureliano si abituò a pensare a loro come Amaranta Ursula pensava a suo marito. E rimasero tutti e due sospesi in un universo vuoto, dove l'unica realtà quotidiana ed eterna era l'amore.